Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Era stata operata per un tumore al seno 4 anni fa e aveva fin dal primo momento rifiutato di sottoporsi alla chemioterapia. È morta la donna di 34 anni, originaria del Riminese e madre di 2 bambini di 8 e 10 anni. Secondo il medico che aveva eseguito l'intervento, le sue possibilità di guarigione erano superiori al 90% se si fosse curata con i farmaci adeguati. Come nel caso della giovane ragazza padovana, anche la donna riminese aveva preferito seguire le teorie del medico tedesco Rick Gerd Hammer, secondo il quale i tumori sono provocati da un grande shock. E la giovane mamma aveva prestato ascolto a una persona al di fuori della famiglia che le aveva consigliato di curarsi con strani metodi naturali. 3 mesi fa era tornata nell'ospedale di Sant'Arcangelo di Romagna perché le sue condizioni erano peggiorate. Gli esami avevano accertato che il tumore... Una madre di 34 anni poteva salvarsi, aveva un tumore al seno. Il rigore e l'evidenza scientifica dice che aveva una probabilità del 90% di salvarsi. Ha preferito ascoltare una sciamana che gli somministrava un decotto di ortiche e ricotta. Nonostante che la famiglia cercasse di farla ravvedere, è morta. Il caso precedente, solo di pochi giorni, è una ragazza di Padova di 18 anni, Eleonora, che proprio perché appena raggiunta la maggiore età ha voluto, seguendo quella che è una sorta di teoria praticata in famiglia, trasferirsi in un ospedale svizzero a Bellinzona, dove c'è libertà di terapia, e si è curata la leucemia con la vitamina C e il cortisone, e anche lei è morta. È un po' di giorni che, all'onore delle cronache, è un nome, avete sentito nel servizio di introduzione del TG5, Rick Gerd Hammer. È un signore che ha inventato il metodo Hammer, la nuova medicina germanica, che è stato naturalmente radiato dall'ordine dei medici dal tribunale tedesco nell'86, ribadita la sentenza nel 2009, non può praticare la professione medica, ma ancora ha forti seguaci. Uno di loro è Eleonora Brigliadori, grande bevitrice della propria urina e che con grande credito e con grande seguito continua a raccontare in giro che il cancro si cura non con la chemioterapia, che in realtà serve soltanto a dare provente alle case farmaceutiche, il grande complotto, probabilmente si parte dalle scie chimiche, si passa per rettiliani e si arriva finalmente al grande complotto della medicina cosiddetta ufficiale, andiamo tutti verso la medicina alternativa. Vi faccio una domanda molto chiara. Questo signor Hammer, che è rimasto traumatizzato, giustamente, perché nel 78 l'erede al trono d'Italia, Vittorio Emanuele, nell'isola di Cavallò, giocando con un fuciletto, gli uccise il figlio. Fu un evento tragico. Il re poi ne uscì anche abbastanza scagionato, mi pare. Questo signore ebbe un cancro al testicolo poco dopo e lo addusse al trauma del figlio. Quindi elaborò una teoria per cui i tumori e le malattie gravi derivano da una sorta di nostro compenso psichico. Basta riequilibrare e riaggiustare il compenso lo scompenso psichico e si torna nuovamente sani. Molti sono portati a credere a questa cosa, ma credere a un'infinità di altre cose: che ci si curi col veleno di scorpione cubano, e che ci siano le sciamane che usano il metodo verbale per curare il cancro. Insomma, l'Italia è piena di medici, pseudomedici, stregoni, sciamani che ancora somministrano cure totalmente inefficaci, inesistenti, a persone che sono portate a credere che in realtà la scienza sia soltanto una sorta di grande complotto, che in realtà esista una seconda scienza, una scienza non ufficiale, che è quella giusta, è quella che ci salva, è quella buona. Ne siete convinti anche voi? Se vi trovaste in un frangente delicato e pericoloso per la vostra vita, una grave malattia, qualcosa che vi mette a pericolo di vita o anche in un problema di grado minore, chi siete più propensi ad ascoltare? Un medico che basa la sua scienza su un'evidenza, quindi su qualcosa di condiviso e di sperimentato, o una persona che vi dice che è un perseguitato e che ce l'hanno tutti con lui perché mette in crisi il grande business, il grande mercato, però ha la cura giusta? Ci sono persone che ancora seguono il metodo Stamina, nonostante sia stato sconfessato, gente che ancora si compra la cura di Bella in Italia. Siete d'accordo o anche voi pensate ci sia qualcosa che non funziona nell'ufficialità? 800 24 00 24, a tra un istante. Melog. Cronache meridiane. All'ottavo mese della mia prima gravidanza è riesplosa questa patologia. Ho conosciuto la dottoressa Mereo e tramite lei, direttamente, anche se tramite Facebook e tutti gli altri del gruppo, ho capito che era un sentimento di sporcizia da tradimento. Questo video sarà un pochinino particolare. Perché direte voi? Perché oggi si assaggia la pipì e si dicono i motivi per cui si può bere o non bere. Quindi state ben attenti. Ora vorrei accompagnarti attraverso la tua prima esperienza della tecnica della porta, per cui trova una sedia comoda e restaci per 15 minuti di seguito. Mantieni gli occhi chiusi e la mente sgombra da preoccupazioni. Francesco, buongiorno. Buongiorno, La sto parlato? ascoltando. Sto parlando con Sì, parla dottor con me, Nicoletti. certo, chiaro. Ci ha cercato lei. Buongiorno. Ma io sono un medico di famiglia, sono già in diretta? Ecco, Certo, in diretta, come niente, io volevo semplicemente dire la mia esperienza di medico di famiglia, che molte volte la decisione presa dai familiari, dai malati, è una decisione che tantissime volte nasce dalla pancia, dei consigli di un amico, di un contatto diretto più che non consiglio da parte Ci faccia del proprio un amico. esempio pratico in cui lei, medico di famiglia, prescrive una terapia e si rende conto che danno ascolto, magari, non so, all'amica di famiglia. Lei ha detto la pettinatrice, non so chi sia la pettinatrice, la parrucchiera, penso. No, tantissimi, sì, ma su problemi un po' più semplici. Tantissime volte quando c'è un male al ginocchio, un male alla schiena, vai a farti scrivere la risonanza dal dottore, no? Quando magari non ce n'è un'indicazione in prima battuta, però come dire, il peso specifico che può avere la congrega del gineceo è un peso specifico più alto di quello che Lo sa, può non dottor essere Francesco, la chiamo quello. dottore perché è medico di famiglia, perché lei ha citato proprio il male al ginocchio? Perché sta girando proprio nei social network da qualche tempo una sorta di messaggio che dice più o meno: le artrosi in realtà sono tutta un'invenzione dei medici per lucrare su di noi, l'artrosi si cura con, e poi c'è una sorta di intruglio che si fa sempre con limoni, bicarbonato e roba del genere, e con le solite testimonianze, come accade nei migliori casi dei venditori di intrugli, che con quello si cura in poche ore tutte le artrosi. Ecco, questo probabilmente è il caso in cui è in corso lei. Sì, ma non solo quello, cioè è che noi facciamo la nostra autocritica. In realtà, come diceva un vecchio medico del 1900, William Osler, una delle cose che differenzia l'uomo dagli animali è la volontà dell'uomo di assumere i farmaci. Molti dolori con un po' di pazienza passano, cioè non siamo obbligati a buttare giù farmacopea, non è questo il nostro mandato. Noi non è che vogliamo avvelenare con la chimica e che la gente viene da noi e vuole essere già guarita per ieri. La Cioè, non c'è la differenza, secondo pazienza. me, Francesco, fra chi si basa sull'evidenza scientifica e chi è sciamano, che lo sciamano promette la pronta guarigione, non esiste tempo, e la sicura guarigione. La scienza dice: io arrivo fino a questo punto, poi non ti posso assicurare nulla. Alessandro, buongiorno. Alessandro. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Io volevo solo dire questo. Io conosco qualche dei ricercatori che sostengono che il cancro si possa anche curare da dei principi che sono nell'aspirina. Attenzione, non dico che l'aspirina presa cura il cancro, ma partendo da questo tipo di ricerca, partendo dai composti dell'aspirina, si può arrivare, dicono, alla soluzione del cancro. Quando lei, Alessandro, dice ricercatori, cosa intende? Persone che lavorano per multinazionali in questo tipo di ricerca. Io ne conosco uno, quindi non faccio nomi e cognomi o quale multinazionale, eccetera. Il problema in questo ambito sta nel No, fatto perché che dicono che. un ricercatore è inserito nella comunità scientifica e tutto il suo lavoro comunque è sottoposto a continua verifica, diciamo, dei suoi colleghi. Un ricercatore non può dire qualcosa che non abbia un'evidenza scientifica, non sia comunque trasferito anche alle persone che lavorano più o meno nello stesso campo. Io posso inventarmi che sono un ricercatore e dire quello che voglio. Quello che però conferma l'evidenza di quello che dico, che anche la comunità scientifica lo dica. Roberto Burioni, buongiorno. Buongiorno. Il dottor Roberto Burioni è un medico e professore ordinario di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano, ma a parte questo, che è il suo titolo scientifico, è una persona che in prima persona, nel luogo più procelloso e più difficile da gestire, sono i social network, difende ogni giorno l'evidenza scientifica. Da quello che ha detto, quale opinione si è fatta? Questo è un campione preso naturalmente a caldo del pensare italiano medio. Vede l'ascoltatore che ha interloquito con lei proprio immediatamente prima di me, è un'esemplificazione di quello che accade. I ricercatori dicono, un ricercatore dice che il cancro si cura con l'aspirina, o un ricercatore dice, parlo del mio settore, che i vaccini causano l'autismo. Questa è una bugia, questa è una balla, questa è una falsità. È come dire che la terra è piatta, è come dire che la benzina non è infiammabile. E la scienza si mette quotidianamente in discussione, ma non si mette in discussione attraverso dei signori che si alzano la mattina e scrivono le loro opinioni spacciandole per verità su internet. Non ci si autoproclama come ricercatore, questo bisogna dire. Assolutamente, ma peraltro se io le dicessi che sono il record, che ho il record dei 100 metri perché mi cronometro dietro casa, lei mi prenderebbe giustamente per un cretino. Certo. Cioè non basta cronometrarsi, dire di aver fatto il record e pubblicarlo su internet. Lei si chiederebbe perché non vado alle Olimpiadi. Ecco, io mi chiedo perché il ricercatore in questione non ha pubblicato un dato così importante che lo renderebbe famoso. Se lavora per una multinazionale, le multinazionali chiaramente perseguono il profitto, per cui un dato di questo tipo potrebbe essere alla base di un brevetto molto importante anche commercialmente. Perché tutto questo non accade? Insomma, la risposta è semplice, perché queste sono tutte bugie. Purtroppo chi è malato o chi ha una persona cara malata è debole e non riesce a distinguere con facilità la bugia dalla verità, per cui in realtà le persone che cadono preda di questi bugiardi sono delle vittime che io ritengo noi dovremmo proteggere. Faccio qualche esempio, dottor Burioni, per far capire come poi è facile, come la logica a volte perversa, ma è interessante perché ci dà l'idea di quello che accade, quello che attraversa l'umanità nei social network, si riverbera anche ormai nella vita concreta. Cascate male, guardia cancelli, mangia cadaveri di Big Pharma. Io vegana farei secondo le mie ricerche ed Ippocrate, padre della medicina. Ecco, vogliamo anche sfatare questa sorta di principio che ognuno di noi può fare suo il dettame del padre Ippocrate e sconfessare il fatto che in realtà esisteranno senz'altro grandi, profondi, ineludibili interessi nel campo della farmacopea, ma dire perché, ad esempio, questo è il suo terreno di battaglia, per i vaccini è un po' una scempiaggine dire che chi difende i vaccini difende gli interessi delle case farmaceutiche. Ma guardi, le case farmaceutiche traggono un profitto dalle vaccinazioni. È logico. Però guardiamo un attimo i numeri. I vaccini, in Italia, tutti i vaccini, nel 2015 hanno fatturato circa 300 milioni di euro. I farmaci per una malattia infettiva per la quale non abbiamo purtroppo un vaccino, l'epatite C, bene, i farmaci per una sola malattia hanno fatturato più di 1,7 miliardi. I farmaci contro per curare l'AIDS, contro il virus HIV, anche qui non abbiamo un vaccino, hanno fatturato ben oltre 600 milioni. Quindi è evidente che i vaccini, per carità, forniscono un profitto, ma non sono certamente la gallina dell'uovo d'oro se lei pensa che solo i farmaci antiulcera fatturano più di 1 miliardo, quindi più di 3 volte i vaccini. Quando io ho detto questo però a questi fanatici, mi hanno detto, ah no, perché tanto i vaccini poi fanno ammalare e voi guadagnate con le malattie che i vaccini inducono, mentre questo non è vero. Di nuovo, la bugia ha lo stesso dignità oramai della verità, ma non è così. E noi continueremo a impugnare la verità, che è quella basata sulle evidenze, finché possiamo. Ripeto, il dottor Burioni non occorre dirglielo, lo sa bene, che nel giro che mi sto facendo in Italia per capire cosa accade nelle famiglie con soggetti autistici, dico che in tutta Italia c'è una credenza diffusissima ancora e preponderante su ogni altro tipo di approccio terapeutico abilitativo che sia colpa dei vaccini. In tutta Italia prosperano persone che fanno chelazioni, fanno camere iperbariche, addirittura fanno staminali in provincia di Napoli clandestinamente, perché ancora la causa dell'autismo, come di molte neurodiversità, è attribuibile ai vaccini. 800 24 0024, chiedo ai nostri ascoltatori di telefonarci e dirci quando anche voi, magari in buona fede, magari perché eravate disperati, magari perché ve l'ha consigliato qualcuno di molto credibile, molto attendibile, di grande fiducia, vi siete incamminati in questi percorsi paralleli: lo sciroppo di veleno di scorpione, il decotto fatto con le ortiche, la cura verbale per curare la grossa malattia, oppure ricorrere ancora a trattamenti e protocolli che sono stati ampiamente sconfessati, come la cura di Bella, come il metodo Stamina e via dicendo. 800 24 0024, ci fermiamo un istante. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta: voglio la zanzara, voglio la zanzara, oh! Ma quando torna la zanzara? Tutta l'estate che mi ascolto il podcast, tutte repliche, ma quando cazzo riniziate? Oh? Scandaloso, perfino lo zingaro all'incrocio è tornato a lavorare. Giuseppe Cruciani, David Parenzo, la zanzara, fra poco di nuovo in onda. Melog, cronache meridiane. Si chiama Escosul ed è una medicina ottenuta dal veleno di una specie di scorpione che è possibile trovare solo a Cuba, il Rofalurus junceus. Da oltre 30 anni l'estratto naturale viene utilizzato sull'isola caraibica come antidolorifico e antinfiammatorio, ma di recente alcuni ricercatori cubani dell'azienda statale Labiofam hanno scoperto che la sostanza possiede anche proprietà antitumorali. Naturalmente, una volta diffusasi la notizia su internet, sono stati molti gli stranieri, tra cui oltre 25.000 italiani, che si sono recati a Cuba per ottenere questa medicina dagli effetti miracolosi. Abbiamo incontrato la dottoressa Mariela Guevara in visita in Italia, appartenente all'equipe di studiosi cubani che ha scoperto... 800 24 0024, ci sono folli italiani che vanno a Cuba e poi lo possono importare, lo somministrano, mi pare, nella Repubblica di San Marino, a prendersi il farmaco a base di scorpione cubano. Non può anche essere che un domani la scienza ufficiale affermi che nel veleno dello scorpione cubano esiste veramente il rimedio per il tumore, ma al momento è soltanto un intruglio, è soltanto una truffa. Non vi elenco i messaggi che mi stanno arrivando, che mi danno, come al solito, schiavo di farmindustria, schiavo di Big Pharma, schiavo di tutti, figlio del complotto, e con me tutte le persone che si sono pronunciate in nome della, del rigore scientifico in questa trasmissione. Noi siamo convinti che questa sia la strada giusta. Mi dicono anche: il metodo di Bella, lei non è correttamente informato, non aggiunga falsità, ricordi come è stata eseguita la sperimentazione. Il metodo di Bella non ha evidenza scientifica, il metodo di Bella non funziona. Poi potete dire quello che volete, costruire dei romanzi, possiamo dire che l'ideatore di Stamina sia un perseguitato, sta continuando a farlo. Stamina è espatriato, chi vuole fare Stamina sa esattamente quali sono i canali per poterlo fare, ognuno è libero di seguire quella che è il suo desiderio nel curarsi o nel non curarsi. Noi facciamo una trasmissione in nome di quello che secondo noi un principio razionale. Claudio, buongiorno. Claudio è caduto. Allora, sentiamo Silvano Fuso. Silvano Fuso, buongiorno. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. Allora, Silvano Fuso è un docente di chimica e socio effettivo del CICAP, che è il Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale. Ha scritto negli anni diversi saggi su questa sorta di particolare tendenza, molto italiana in questo caso, di affidarsi più alla parascienza, più allo sciamanesimo, alla superstizione, piuttosto che a quelle che sono le evidenze scientifiche. Ne cito qualcuno: la falsa scienza, invenzioni folle, frodi e medicine miracolose dalla metà del Settecento a oggi, è un escursus storico del 2013 Carocci, e uscirà tra poco, sempre per Carocci, naturale uguale buono, perché anche uno dei principi sacri che vengono impugnati nei confronti di quello che è la scienza è dire: ma sai, non è, noi seguiamo i metodi naturali. I metodi naturali vanno dalla grande bufala dell'omeopatia fino a naturalmente a curarsi con le erbe, a curarsi con i principi naturali, a curarsi con la propria pipì. Allora, Silvano Fuso, lei si sarà domandato negli anni, visto che questo studia, come mai c'è una tendenza così innata nel tornare indietro, nel fidarsi piuttosto che dello scienziato, di quello che comunque è in mano delle evidenze controllate, riscontrate, nell'idea che esista sempre qualcuno di alternativo, che si identifica perfettamente con la figura dello stregone, del guaritore, dello sciamano. La dottoressa che fa la cura verbale del cancro è una sciamana, non è un medico. Certo, mi permetto di fare una precisazione: il libro Naturale uguale buono è già uscito. È già uscito? Ah, allora. Gennaio, sì, sì, ah, perfetto. Quindi è già possibile comprarlo, Carocci Editore. Da diversi mesi in commercio. Perfetto, quindi ne approfittiamo. Chiedo scusa, la scheda non era aggiornata. No, è giusto, è lecito. Okay. Quello che lei sottolineava e che è già emerso nel corso della trasmissione è purtroppo una realtà. Già un filosofo di nome Odo Markard aveva messo in evidenza proprio questa tendenza della mente umana, cioè di fronte ad una innovazione scientifica tecnologica che porta benefici e elimina fatica, sofferenza e quant'altro, l'uomo in un primo tempo accetta con grande entusiasmo questa innovazione, poi subentra una fase di assuefazione, di indifferenza e successivamente, in modo paradossale, subentra proprio un atteggiamento di rifiuto, di diffidenza. E è proprio quello che sta accadendo in diversi campi, non solo in campo medico, ma in tantissimi altri, non so, dall'alimentazione all'agricoltura, alla cosmesi, sono temi che appunto io sviluppo nel libro. Soprattutto in questo suo ultimo libro, che erroneamente ho detto ancora in preparazione quando è già in libreria, e c'è anche quest'altro mito del naturale. Il naturale, esatto, è sempre esatto. da anteporre. Cosa significa oggi il mito del naturale? Si tratta di un mito, perché praticamente si presuppone che tutto ciò che sia naturale sia necessariamente buono, salutare, eccetera. Però è un mito, perché basta ragionarci un attimo, cioè se noi pensiamo, non so, ai veleni più potenti che esistano a questo mondo, sono di origine naturale, per esempio il veleno di certi serpenti, le tossine di certi funghi, oppure le stesse malattie, no, causate da virus e batteri, sono perfettamente naturali, quindi basterebbero queste banali considerazioni per rendersi conto che non necessariamente ciò che è naturale è buono. Le posso fare un esempio? Esempio, dottore, scusi, di esperienza personale, proprio per far capire a quelli che mi stanno insultando via sms, dandomi comunque del venduto, perché se uno vuole procurarsi comunque cattiva reputazione, basta fare una trasmissione come questa. Io potrei. Mi scivola. Allora, oggi, se uno va in farmacia, lecito farlo, compra in delle bustine bellissime, confezionate con carta riciclabile, con nastrini in paglia naturale, può comprare della crusca miracolosa che fa benissimo, è naturale. Ora, io che ho un passato agreste, mi ricordo da bambino, quella stessa crusca era in grossi bidoni, la tenevano nell'aia i contadini, la prendevano a secchiati, ci facevano il pastone per i maiali, e se avessi detto mangiate questa crusca, mi avrebbero preso a sassate. Oggi vedete come cambia e come è relativo anche il concetto del naturale uguale buono. È una questione proprio di carattere anche psicologico, perché ad esempio gli psicologi hanno individuato e definito proprio un bias, no? Come dicono i tecnici, cioè un errore mentale che hanno definito efficacemente retrospettiva rosea. Cioè in pratica noi abbiamo un falso ricordo del tempo passato, per cui questo passato immaginario viene totalmente idealizzato, no? La frase tipica che viene continuamente pronunciata è: si stava meglio quando si stava peggio. Ma figuriamoci, una volta la vita era infame. Ascolti un attimo anche il professor Burioni, che poi convocherò su questa telefonata. Luciano, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci racconti la sua storia. Guardi, io ho avuto, fortunatamente tutto è andato bene, poi ho avuto un figlio 30 anni fa che proprio a Padova ha avuto problemi di leucemia. Padova è la città, diciamo, della famiglia di Leonora, la ragazza morta in Svizzera. Sì. Ecco, il primario era il professor Giuseppe Basso, è adesso il professor Giuseppe Basso, che era medico quando io ho avuto questa esperienza. Sì, lo stesso di adesso, sì. Sì, sono lo stesso di adesso. E praticamente sono stato non voglio dire assalito, comunque consigliato da parte di più persone, anche in buona fede, non voglio dire, di andare da una parte e dall'altra. E addirittura una persona mi aveva detto di andare a Trento perché c'erano delle suore che pregavano attorno a una piramide. No, no, scusi, ma questo gliel'ha consigliato? Amici degli amici o medici? Amici. Tutte persone... Cioè, per la leucemia andare a Trento ci sono le suore della piramide, della sacra piramide. Le suore della piramide. Allora, parlo di 30 anni fa, non so se ancora esistono, non ho mai capito cosa sia questa piramide. E comunque. Poi invece io ho seguito le cure, i protocolli internazionali, perché bisogna anche dire che sono protocolli internazionali. È tutto andato bene, per cui non capisco perché bisogna andarsi a fidare di fronte a statistiche assodate, andarsi a fidare di persone o comunque di consigli, insomma, che non hanno niente di scientifico. Allora, fermola. Dottor Roberto Burioni, ricordo che è ordinario di microbiologia e virologia al San Raffaele di Milano. Non è che chiamiamo persone che raccattiamo per strada, vi dite vergognatevi per i vostri esperti, è una persona che ha totale riconoscimento. Di fronte a quello che ha sentito lei, mi dice della sua esperienza quante volte è capitato in persone, tra quelli che la massacrano ogni giorno nei social network, che portano come prova testimoniale e certezza alle loro teorie totali panzane, come le suore della Sacra Piramide? Guardi, purtroppo accade quotidianamente ed è curioso il fatto che queste persone oscillino tra una fede totale nei confronti della scienza, quando dice qualcosa che magari travisato può portare acqua al loro mulino, e invece quando la scienza dice, come spesso dice, che tutto quello che dicono è una sciocchezza. Da medico io vorrei però dire una cosa. Che è molto importante, le persone che sono malate sono deboli, è molto facile discutere di queste cose stando bene, ma quando si è malati e quando si è malati gravemente è molto difficile rimanere lucidi. Per questo è molto importante fare quello che fa lei, cioè da giornalista informare correttamente, dire alla gente guardate, non potete mettere sullo stesso piano un cialtrone che scrive su internet e la comunità medica mondiale. Sarebbe come salire su un aereo pilotato da uno che ha imparato a farlo su YouTube, nessuno lo farebbe e questo quindi fa molto bene lei a comunicare questo. D'altra parte è molto grave quando queste balle vengono propagandate da medici, perché anche questo succede. Questo è gravissimo, perché nel momento in cui una di queste cure viene suggerita da un medico, viene ammantata da una autorevolezza che invece non ha. E a me molto spesso mi raccontano le stupidaggini sui vaccini, mi dicono, ma lo dice quello che è medico come te. Ecco. Guardi, dottor Burioni, basta guardare su internet, ci sono fior di medici che ancora nessuno ha radiato dall'ordine dei medici, che ancora fanno campagne contro i vaccini, sono suoi colleghi. Questo è gravissimo. Voi che dovete rivolgervi ai vostri colleghi e fare in modo che non siano più medici, perché sono persone che esattamente con la stessa credibilità, perché hanno un diploma di laurea dietro le spalle, un'abilitazione a essere medici, dicono esattamente il contrario di quello che dice lei, e lei capisce che in fondo il malato, ma anche il comune cittadino, la persona comune, si trova in uno stato di enorme confusione. Ci fermiamo un istante, a me piacerebbe rifare un punto su di voi, su come la comunità scientifica in Italia in realtà difende i suoi sacri principi, sacri in quanto laici. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Melog, cronache meridiane. Ancora oggi Nicoletti ha espresso il suo concetto di giornalismo, cioè partendo da una mia convinzione costruisco la trasmissione con pareri e interventi che la sostengono in pieno, invece dare voce ad autorevoli diversi punti di vista. Non è così. Gli autorevoli diversi punti di vista non esistono, perché la comunità scientifica in questo è una. Non dovrei chiamare il dottor Burioni assieme a Eleonora Brigliadori o Red Ronnie come ha fatto un mio collega, perché è una cialtronata totale. Mi dice un altro ascoltatore, infatti, ti consiglio di sentire, se vuoi sentire un'altra campana, il professor Stefano Montanari. Stefano Montanari è un medico, me ne prendo la responsabilità, che dice di curare l'autismo con trattamenti omeopatici. È totalmente fuori da quella che è l'evidenza scientifica. Dottor Burioni, perché mi mette la comunità scientifica in questo imbarazzo di difendere io quello che dovreste difendere voi? Io più di quello che faccio non posso dire, non posso fare. Purtroppo ci sono persone che hanno un approccio fideistico a questi argomenti, sono del tutto impermeabili ad argomenti razionali. Non è possibile intaccarle, perché appunto qualcuno dice dovreste sentire anche l'altra campana, ma scusi, quando una partita di calcio finisce 2-0 non è che si invita uno che sostenga che invece è finita 2-2, il punteggio è quello e da lì si parte, è un fatto, allo stesso modo che il vaccino non causa l'autismo, per esempio, è un fatto. Basta, non c'è bisogno di un'altra campana, non è costruttivo se si parla di quanto fa 2 più 2 chiamare uno che non conosce la matematica. Paolo, lo spieghi, scusi, dottor Burioni, perché non è perché è un dogma, perché c'è un Dio che ci dice questo, perché no. Come funziona la comunità, il metodo scientifico, lo spieghi velocemente per far capire. È esattamente l'opposto di un dogma. Se io sono convinto di una cosa che è diversa da quello che dice la scienza, io formulo un'ipotesi, mi metto a lavorare, a fare degli esperimenti, a raccogliere dati, ad elaborarli, a capire se la mia ipotesi è giusta, e se la mia ipotesi sulla base della mia analisi dei dati risulta essere giusta, la sottopongo alla comunità scientifica attraverso la pubblicazione su un giornale dove dei colleghi faranno le pulci giustamente al mio lavoro, alla metodica che ho usato e decideranno, caro professor Burioni, quello che tu hai concluso è giusto oppure non è giusto, rifai, rimettiti e continua. Così funziona la scienza e tutto si può mettere in discussione. Tanti lavori hanno tentato di mettere in discussione il fatto che i vaccini non abbiano nulla a che fare con l'autismo, ma non ci sono mai riusciti. Per cui è chiaro che si può tentare di dimostrare il contrario, ma è il caso della teiera del filosofo Russell. Se qualcuno sostiene che c'è una teiera tra Marte e Giove, deve dimostrare che c'è, non può pretendere che la scienza smentisca questa balzana teoria. Così funziona. Sentiamo Claudio. Claudio, velocemente. Claudio. Sì, buongiorno, sono io. Sì, lei Claudio. Ecco, sì. Guardi, allora, la base, lei lo sa meglio di me, è che la gente crede a ciò in cui vuole credere, prima di tutto. È un caso paradigmatico, è quello di una mia cliente, che è venuta da lei me cosa, a lei fare... Lei che mestiere fa, lei? Io faccio il tatuatore. Tatuatore, sì. È venuta a fare un tatuaggio da me per festeggiare il fatto che dopo, mi sembra, 13 anni di cure... aveva finito i suoi cicli di chemioterapia, radioterapia, eccetera, eccetera, e che ha continuato fino al giorno prima. Però nel frattempo, circa 2-3 anni fa, per una breve parentesi, una infermiera le aveva suggerito di fare anche, in aggiunta, la terapia di Bella, che lei ha fatto per un breve periodo, poi ha interrotto, continuando i suoi cicli di chemio e radio. La sua conclusione qual è stata? Io sono viva grazie a Di Bella, perché la multinazionale del farmaco vogliono soltanto farci ammalare per vendere farmaci. È la conclusione, questa dopo 13 anni di cure tradizionali. Spero che il tatuaggio suggelli questa sua convinzione. Silvano Fuso, molte volte l'informazione dello stregone, dello sciamano, dello scienziato alternativo viene proprio, e questo è il tema che mi interessa di più, proprio dalle maglie più strette che stanno attorno alla terapia ufficiale, alla terapia medica. Vedi, in questo caso lo suggerisce un'infermiera, ma non è un caso peregrino, è sempre così. Risulta anche a lei questo? Ma sì, purtroppo quello che lei dice è vero. Bisogna anche sottolineare un altro fatto. Cioè, spesso questi alternativi, chiamiamoli così, hanno delle capacità comunicative più efficaci rispetto a quanto non abbia la comunità scientifica. Quindi la comunità scientifica si dovrebbe, secondo me, impegnare molto di più proprio nel far conoscere il proprio modus operandi. Non vorrei sparare contro la Croce Rossa, ma se le campagne demografiche per l'igiene sessuale sono come quelle sul Fertility Day, mi rendo conto, devono ancora molto imparare. Vorrei però sottolineare una cosa: quell'iniziativa non è nata dalla comunità scientifica, è nata dalla politica. Anche qui bisogna sempre distinguere, cioè un conto e la comunità. No, ma c'erano, diciamo, andrologi e ginecologi, cioè bisogna dire ai ragazzi di farsi qualche esamino al pisello perché non glielo fa più nessuno. Questa era l'idea di base. Quello che lei dice mi dà spunto per fare un'altra considerazione. No, molta gente, ad esempio, che difende l'omeopatia, dice in certi paesi i rimedi omeopatici sono pagati dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma questo non significa nulla, perché non è un riconoscimento scientifico, è un riconoscimento, se vogliamo, di carattere politico. Però, ripeto, non bisogna distinguere quella che è la comunità scientifica da quello che è il mondo politico, anche perché, come ben sappiamo, i politici sono continuamente alla ricerca di consenso, e ottenere il consenso è molto facile quando ci si rivolge alla pancia della gente. Voglio concludere col dottor Roberto Burioni. Un'altra, diciamo, eccezione viene fatta, vediamo se riusciremo in pochissimo tempo, è che il medico oggi non sembra più molto appassionato al proprio paziente, è diventato quasi un burocrate, prescrive semplicemente delle terapie, scrive, delle volte nemmeno guarda, sembra sia soltanto interessato a riscuotere la sua parcella, poi chi si è visto si è visto. C'è anche una caduta di attenzione verso la patologia e soprattutto verso il paziente generalizzata, lei la riscontra, la vede, la sente? Guardi, se questa caduta c'è è sbagliata. Io insegno all'università, insegno ai medici e ricordo sempre che comunque dietro a una malattia c'è una persona che soffre. E, è anche vero che però la medicina è cambiata. Nella medicina degli anni 60 un medico di famiglia poteva curare quasi tutto quello che non era chirurgico. E ora non è più così. C'è lo specialista per qualunque cosa. Però la differenza è che, per esempio, una volta una persona che aveva un infarto gli si dava una pasticca di trinitrina e gli si diceva di stare seduto attendendo l'infarto successivo, e adesso una persona che ha un infarto va nelle mani di uno specialista che certo forse riesce meno a comprenderlo come persona, però gli ristora la salute e questa persona può campare fino a 90 anni. Non dimentichiamoci che non tanto lontano nel tempo, agli inizi del Novecento, moriva prima di compiere un anno un bambino su tre, l'età media era poco sopra dei 40 anni, anche negli anni 50 e intorno ai 60. Grazie a queste terribili case farmaceutiche, a questi farmaci, si vive molto molto più a lungo, e io personalmente sono molto felice di vivere in un mondo dove un'appendicite non è più una sentenza di morte, dove una polmonite non ha una mortalità del 30%, perché probabilmente qualcuno di noi non ci sarebbe più. Grazie Roberto Burioni, grazie a Silvano Fuso. Mi dice l'ascoltatore che il Montanari, dice lui, non è Montinari quello che ho detto io, comunque sia è un medico che dice che i vaccini fanno male, quindi comunque sia è un medico che dovrebbe essere tenuto sott'occhio alla sua stessa comunità scientifica. A domani.